I'm gonna see you. I'm gonna see you. I don't know. e non si avvede che è sano e buono. Quando tutto va, ogni mese ho trascorso per me. Ogni anno ho bisogno di un bel mese. A per molto è sempre. Maybe one day she'll be a superstar. I'm telling you.